Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per un'altra giornata economico-finanziaria. Allora, i temi: se la borsa va abbastanza bene, anzi bene a Milano, più 1%, recupera il calo di ieri, più 0,6 Parigi, più 0,7 Francoforte e più 1,1 Londra, bene anche l'America, più 0,6%, c'è un euro di nuovo molto forte, tranquillamente sopra quota 1,40 sul dollaro, a 1,4032. C'è un titolo fondiario assai su cui i timori che l'ingresso di Groupama sia più difficile del previsto, che alla fine vi possa essere l'obbligo di OPA e quindi la rinuncia di Groupama, continuano a penalizzare il titolo, meno 4,26%. Fiat oggi risente più di ieri dei dati sulle matricolazioni, che arriveranno alle 18 ufficialmente, ma già ieri anticipati da Federauto, meno 1,6%, mentre Bulgari guadagna il 2,90, Telecom il 2,20, come Saipem, Unicredit più 2%, oggi recuperano molte banche, non solo Unicredit ma anche UbiBanca più 2%, Generali più 1,90, Intesa più 1,20, bene Campari più 2 e Mediolanum più 1,43%. Questa è la borsa, dicevamo, ci occuperemo oggi da un lato dell'apertura del salone del ciclo motociclo, è un settore che vale da noi quasi 5 miliardi di euro di fatturato, 90.000 addetti con l'indotto, quindi con tutti coloro i quali forniscono anche componenti. L'Italia è leader a livello europeo nella produzione delle due ruote, ma il settore si avvia a chiudere il 2010 con un meno 25% e spera molto negli incentivi che dovrebbero partire da domani e soprattutto anche nella domanda estera. Dicevo, questo è il tema di apertura. Poi, come sempre, i mercati finanziari, le strategie di investimento di BlackRock, l'intervista che ieri abbiamo dovuto fare saltare, le attese poi per quello che riguarda le elezioni di midterm in America, scontato, dato per scontato da tutti, un calo del consenso per Obama, per essere buoni. Cercheremo di capire, insomma, in questo mondo del Tea Party, ma non solo, quanto pesino le variabili anche economiche nel ragionamento dei conservatori. Infine, un approfondimento sui promotori finanziari, dopo che un nostro ospite li aveva criticati, e diamo la parola anche a chi li rappresenta. In tutto questo va detto che ci sono altre notizie che vi racconteremo adesso in breve, che riguardano soprattutto l'Italia, il giudizio di Standard & Poor's, ma anche una notizia appena uscita sul fabbisogno del settore statale, e che il numero per i vostri sms resta 349 238 6666. Le notizie in breve. E allora partiamo dall'oro, l'oro di nuovo vicinissimo a record, 1.350 dollari all'once nei mercati asiatici, il petrolio 84 dollari al barile, ma in tema di petrolio era immaginabile che British Petroleum, dopo il disastro della marea nera del Golfo del Messico, avrebbe avuto una bella botta economica, oggi siamo in grado anche di quantificarla. 7 miliardi e 700 milioni di dollari accantonati, cioè messi da parte in previsione delle perdite del greggio nel Golfo del Messico. 7 miliardi e 7 è quasi una manovra finanziaria. Il colosso britannico infatti ha visto crollare l'utile del 66% a 1 miliardo e 800 milioni di dollari contro i 5 miliardi dello stesso periodo, cioè del terzo trimestre del 2009. Ancora, per quello che riguarda le valute, vale la pena segnalare che la valuta cinese, lo yuan, ha segnato il maggior rialzo contro il biglietto verde da oltre 4 mesi a questa parte. Secondo molti analisti, se gli europei e gli americani non glielo chiederanno, Pechino in realtà, che odia rispondere alle richieste e ai diktat, Pechino porterà lentamente lo yuan a apprezzarsi verso il dollaro, anche perché l'economia cinese è tornata a crescere a ritmi sostenuti. E ancora, secondo invece l'ex governatore della Federal Reserve e consigliere economico attualmente del presidente Barack Obama, Paul Volcker, la seconda tranche, il secondo stimolo della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana nei confronti dell'economia americana, cioè sostanzialmente, che potrebbe essere annunciato domani, il fatto che la Banca Centrale Americana andrà a comprare titoli di Stato americani per tenere bassi i rendimenti, non avrà risultati straordinari. Questo è il suo giudizio, si chiama quantitative easing, allentamento quantitativo per i tecnici. Adesso veniamo all'Italia, dove qualche notizia c'è anche qualche notizia positiva. Perché da un lato l'indice manifatturiero italiano, o meglio nell'area euro, ma grazie all'Italia e alla Germania, è salito molto. C'è una prima stima oggi di Reuters, la soglia dei 50 punti che fa da spartiacque tra recessione e espansione è stata superata, si è saliti a 54,6 punti, bene la Germania 56,6 punti, ma bene anche l'Italia come settore manifatturiero a 53 punti. Quindi sopra la media europea. E poi il fabbisogno dello Stato. Per fortuna nel mese di ottobre è stato inferiore all'ottobre di un anno fa, di 11 miliardi e mezzo in meno. Cioè nei primi 10 mesi il fabbisogno complessivo dello Stato è stato di 72 miliardi. 11 miliardi e 500 milioni in meno rispetto ai primi 10 mesi del 2009, e tra l'altro a ottobre c'è stato bisogno di 7 miliardi e 500 milioni di euro, che sono 3 miliardi e mezzo in meno rispetto al fabbisogno dello Stato nell'ottobre del 2009. E questa è sicuramente una buona notizia, così come è una buona notizia che le agenzie di rating Standard & Poor's, quelle agenzie che danno il voto ai debiti dei vari paesi, ha confermato il voto dell'Italia ad A+, ma soprattutto con prospettive stabili. Questo vuol dire che non vede l'agenzia di rating un peggioramento della qualità del nostro debito. C'è però un però. Dice infatti Standard & Poor's, il voto sul debito italiano potrebbe subire un ribasso, una pressione a ribasso, se l'instabilità politica dovesse impedire l'implementazione del programma corrente o se il governo non riuscisse a fare ulteriori robusti aggiustamenti per raggiungere gli obiettivi finanziari. Allora andiamo avanti per quello che riguarda all'Italia, oggi un po' di maretta, cioè in alcune anticipazioni del nuovo libro di Bruno Vespa, il numero uno di Alitalia, Rocco Sabelli, diceva che lui avrebbe proposto una fusione con Air France. Nel 2011 Alitalia avrebbe raggiunto il break-even, tornando a assicurare i collegamenti con Rio de Janeiro e con la Cina. Il break-even vuol dire il pareggio, diciamo, operativo. E allo stesso modo, però, alla domanda di Vespa, Sabelli risponde nel libro: beh, proporrò una fusione con Air France. Sempre nello stesso libro, però, la pensa diversamente il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che dice: l'Italia dovrà restare italiana. Allora, ha in qualche modo tagliato la testa al toro oggi il presidente dell'Italia Roberto Colaninno, che ha detto: può essere un pensiero di Sabelli quello della fusione con Air France, ma non è condiviso dagli azionisti. E poco fa ha corretto, diciamo, il tiro Rocco Sabelli, dicendo: il tema dell'assetto azionario non è di attualità, ciò che ho espresso è una valutazione personale sui processi futuri di consolidamento. Amen. Allora, stiamo per arrivare al tema di apertura, però prima non potevamo non far arrabbiare alcuni ascoltatori. Perché? Perché è uscito un dato dell'Istat sui trattamenti pensionistici relativi al 2008 e disaggregando i dati sugli assegni di invalidità si scopre una cosa che oggettivamente è difficilmente sostenibile. E cioè che i non udenti italiani, i non vedenti italiani si concentrano tutti al sud con percentuali numeriche che sono il doppio rispetto a quelle del nord, nonostante la popolazione del nord per l'Istat sia fatta di 27 milioni di persone e al sud di 20 milioni di persone, quindi 7 milioni in meno. Eppure ci sono 4.500 non udenti al nord, 7.500 al sud, ci sono 2000, scusatemi, ci sono qualcosa come 16.000 non vedenti, ciechi al sud, a fronte di un dato nettamente inferiore al nord. Insomma, in questa scheda cerchiamo di, col massimo rispetto per categorie che tra l'altro sono anche molto vicine alla D24, a cui noi siamo molto vicini, di far notare che insomma, c'è qualcosa che non funziona se c'è una distribuzione così devastante delle invalidità, o veramente c'è un problema sociale, oppure c'è qualcuno che fa il furbo su delle realtà invece che vanno assolutamente seguite da vicino. La scheda. I non udenti italiani e i non vedenti si concentrano nel sud con percentuali quasi doppie rispetto al nord. Come comunica infatti l'Istat, le pensioni per i non udenti erogate nel 2008 sono state nel complesso 14.223. Di queste, 4.511 sono andate al nord, dove risiedono oltre 27 milioni di persone, mentre i beneficiari nel mezzogiorno sono stati 7.485 su una popolazione di 20,8 milioni di persone. Nel centro le pensioni sono state 2.227, un numero inferiore a quelle erogate nella sola Sicilia, che ha ricevuto 2.378 assegni. Situazione simile per i non vedenti, per cui sono state corrisposte nel complesso 98.915 pensioni. Ma se al nord gli assegni si sono fermati a quota 35.000 e nel centro a 18.600, nel mezzogiorno sono stati poco più di 45.000. È vero che parte della disparità nord-sud si spiega con il fatto che l'erogazione della pensione dipende anche da requisiti di reddito, ma in alcuni casi il gap appare davvero troppo elevato. Più nel dettaglio, la regione con il numero maggiore di pensioni assistenziali di ogni genere è stata la Campania, con 537.000 assegni su 5,8 milioni di abitanti, seguita dalla Lombardia con poco meno di 480.000, ma con 9,7 milioni di abitanti. In terza posizione la Sicilia, con 459.000 assegni assistenziali a fronte di 5 milioni di abitanti. E allora, col massimo rispetto per chi vive una sofferenza, un disagio, un dramma in alcuni casi come i non udenti e i non vedenti, e proprio per via di questo rispetto, insomma, non è pensabile che in Sicilia vi siano, anzi nel centro Italia vi siano un numero di ciechi inferiore a quelli della sola Sicilia, e lo stesso dato vale anche per i non vedenti. Le cifre sono chiare: in tutto il centro Italia ci sono pensioni per non udenti che sono 2.227, in Sicilia sono 2.400. I non vedenti nel centro Italia, in tutto il centro Italia, sono 18.600, appena un po' di più rispetto ai 14.000 della Sicilia. Chiaramente qualcosa non torna. Noi adesso però cambiamo tema. 349-238-6666 per i vostri SMS. Ieri abbiamo dato ampio spazio alle anticipazioni sui pessimi dati del mercato auto, meno 29,5%, con la Fiat che perde molto più, meno 39,5%. Oggi ci occupiamo del settore delle due ruote, che è in difficoltà, ma cui qualche spiraglio, per dire così, forte, si vede, come emerge dal salone ECMA. E dicevamo, infatti, inaugurato oggi a Milano, inaugurata la 68esima edizione di ECMA, che è insomma il salone del ciclo e motociclo. 1100 produttori di motociclette e accessori su 50.000 metri quadrati fino al 7 novembre. Una delle manifestazioni più importanti a livello mondiale, perché l'Italia è il primo produttore europeo delle due ruote di ciclo e motociclo. Complessivamente ci lavorano quasi 14.000 persone per un giro d'affari di 4 miliardi di euro e 6.000 punti vendita. Se però si guarda anche all'indotto, cioè a chi fornisce componenti, accessori vari, gli addetti al settore delle due ruote in Italia sono oltre 90.000. Questa è l'importanza del settore, certo che non è uscito indenne né dal 2009 né dal 2010, a giudicare dalle cifre diffuse anche oggi. Siamo in collegamento allora con il presidente dell'ANCMA, che è l'Associazione Nazionale del Ciclo e Motociclo, rappresenta i due terzi, quasi i tre quarti di tutto il settore, Corrado Capelli, buonasera. Buonasera a lei. Allora, dicevo che nonostante l'importanza che gioca l'Italia nelle due ruote, quest'anno comunque voi subirete una flessione che assomiglia molto a quella delle quattro ruote, se ho ben capito meno 25% alla fine, prevedete? Esatto, il dato esatto. Ecco, la flessione che si andrà a localizzare soprattutto dove? C'è scooters, moto o cinquantini? Quelli che hanno ridotto molto le vendite sono gli scooter, che hanno subito le pressioni maggiori, e i ciclomotori. Vanno invece bene le moto di grossa cilindrata. Quelle hanno avuto un recupero che però non compensa il calo generale. Da lì quindi la previsione di 220.000 scooter, 95.000 moto e 90.000 cinquantini come vendite. Infatti. Quanta parte ha avuto il calo del consumo italiano in questo meno 25% che farete a fine anno? E quanto siete riusciti a recuperare dall'export? Ma guardi, l'export è leggermente positiva rispetto all'import, perché noi importiamo anche in Italia molte moto di produzione straniera. Senz'altro la mancanza di incentivi, o perlomeno l'esiguità degli incentivi messi a disposizione a aprile, 10 milioni, l'anno scorso 12 milioni per esattezza, l'anno scorso ne abbiamo avuti 130, ha giocato negativamente. Adesso l'annuncio della riapertura degli incentivi, che scattano proprio da domani, speriamo ci faccia recuperare in parte il gap che si è verificato. Ma il calo, mi scusi, è stato dovuto soprattutto ai consumi italiani o anche avete avuto problemi nelle esportazioni? Ma anche il mercato europeo in generale è calato, perché è calato circa del 10%, per cui risentiamo sia del mercato nazionale che dell'export in generale. E il tema degli incentivi, lei ricordava che l'anno scorso voi avete tenuto bene grazie a incentivi che complessivamente valevano 130 milioni di euro. Quest'anno a maggio ne avete avuti solo 12 e da lì calo. Da domani scatteranno incentivi di che entità e con che modalità? Ma guardi, gli incentivi, a differenza del passato, sono confluiti in un fondo unico che riguarda non solo il nostro settore, ma la nautica, il movimento terra, gli elettrodomestici, eccetera. Per cui si scatterà una corsa a chi ne approfitta meglio. E gli incentivi sono nella misura del 10% per le moto fino a 70 kW, del 10%, ripeto, con un massimo di 750 euro. Invece per i motori elettrici abbiamo un tetto di 1.500 euro. E quanta parte vi aggiudicherete questi incentivi? Scusi? Beh, questi incentivi complessivamente quanto valgono, mi scusi? Quelli che riguardano anche nautica, voi... 110 milioni. I 110 milioni di cui parlavamo prima. Ecco, voi che parte pensate di riuscire ad aggiudicarvi? Ma guardi, questo è molto difficile da prevedere, perché molto tutto andiamo verso una stagione che non invita certo a comprare la moto. Beh, neanche però... la barca però. Sì, neanche la barca. La barca la macchina a movimento terra, diciamo, uno quella la compra indipendentemente dalla stagione, ecco, a meno che non ci sia. Certo. Però sa, la moto risente dell'andamento stagionale. Comunque il fatto che si possono immatricolare fino al 31 marzo e concludere i contratti entro il 31 dicembre fa ben sperare, perché c'è una coda di stagione propizia. Ecco, però voi oggi nell'aprire un salone così importante, purtroppo celebrate anche un record negativo, cioè il calo delle immatricolazioni delle due ruote a ottobre ha fatto meno 46%, quasi 45,8, in linea con, anzi peggio di quello che ha fatto l'auto. Confidate che gli incentivi possano risolvere tutto? No, gli incentivi senz'altro non risolvono tutto, danno un aiuto alle industrie e mi permetta di dire che danno un aiuto anche alla qualità dell'aria, perché chi rottama poi l'euro 0, l'euro 1 e circola in euro 2, un euro, cioè in euro 3, migliora la qualità dell'aria. Però è un salone improntato all'ottimismo, è impressionante il numero di novità sia nel campo della moto che nel campo degli accessori che sono stati presentati in questo salone. E come lei ha detto, ci sono oltre 1100 espositori e i metri sono ben 200.000 lordi, perché c'è la parte scoperta con spettacoli come Green Planet, che sono, riguarda i motori con l'energia pulita, e poi c'è un sacco di manifestazioni collaterali, corse, teste di drive test, spettacoli musicali e quindi ci aspettiamo un grosso interesse anche di pubblico, sì, non solo di operatori. Ecco, però appunto per arrivare al tema conclusivo, insomma, gli incentivi vi daranno una mano, ci mancherebbe, ma non si può vivere di soli incentivi, perché è un mercato che vive di incentivi, un settore che vive di incentivi è un settore drogato alla fine. Certo. Allora, un conto è superare questo 2010, cercare di non... E un conto è ragionare sul futuro delle due ruote. Lasciamo stare la bicicletta per un momento, ma concentriamoci sulle due ruote a motore. E allora, lei gli sforzi che deve fare, in quale direzione sono? Oggi, per esempio... Il gruppo Piaggio ha presentato la Vespa a quattro ruote, il futuro dell'Ape, l'evoluzione dell'Ape, ma insomma, quali sono verso motori che consumino meno, inquinino meno, andare a aggredire i mercati esteri? Cioè, vorrei capire come pensate nel 2011 di non chiedere incentivi. Ma noi abbiamo reagito presentando una marea di progetti innovativi. Dai nostri comunicati stampa sono talmente tanti che mi faccio fatica a citarli a memoria, però vanno dalle moto nuove che senz'altro hanno progettazioni che risparmiano i consumi, agli accessori e componentisti delle moto stesse che sono innovativi e quindi migliorano la sicurezza, migliorano la prestazione. Noi ci stiamo preparando a una sperata ripresa che vedrà anche la nostra ripresa di settore. Beh, noi ve lo auguriamo a lei, ma soprattutto a tutti i dipendenti, che sono appunto 90.000 con l'indotto, ma insomma quasi 14.000 quelli addetti alla produzione. Grazie intanto al presidente dell'Associazione Nazionale Ciclo e Motociclo, Corrado Capelli. Buon salone. La ringrazio. Questo per quello che riguarda un settore di cui spesso non ci occupiamo, ma non riusciamo a fare tutto. Adesso c'è il meteo e la pubblicità, poi c'è la borsa che ha chiuso bene, più 1%, non 0,90, più 1% Milano nel finale. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, i temi oltre alle due ruote oggi prevedono, come sempre, questo era il mercato azionario, e poi passeremo anche alle scelte di investimento. Più 1% Milano, più 0,70 Parigi, dicevamo più 0,70 anche Francoforte, e più 1,1 Londra. L'America più 0,60, euro su dollaro a quota 1,4026. Bene, Bulgari più 2,80, Saipem più 2,40, come Unicredito più 2%, Ubibanca e anche Telecom e Campari, più 1,70 Generali, più 1,30 Mediolanum, più 1% Intesa e Italcementi, ma anche Parmalat. Fronte opposto invece, Fondiaria Sai meno 4,1, Fiat meno 1,7, Autogrill meno 1,4, Monte dei Paschi meno 1,2, Banco Popolare meno 1%, Buzzi Unice meno 0,80. Fondiaria Sai di nuovo sotto i riflettori e anche con la controllante Premafin, perché no, appunto cede anch'essa in borsa, però il peggior titolo oggi è la Lazio, un po' di realizzi, meno 7,4, Vita, società editoriale, meno 6,30, e poi Kerself e Fondiaria. Il migliore Sabaf, più 4,80, Carraro, più 4,5, Casa Damiani, più 4,5, Vivendi, più 3,80%. Il commento, come sempre, con l'agenzia di stampa Radio Colli sulle 24 ore, Paolo Paronetto, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, il rimbalzo oggi di quasi tutti i bancari, lo raccontavamo, Unicredito, Generali, Mediolanum. Su Unicredito però oggi ha debuttato Banca Unica, l'abbiamo raccontato anche questa mattina nei nostri GR. Sì, esattamente, Unicredit è stato il miglior titolo bancario, si tratta principalmente di un rimbalzo dopo la debolezza di ieri che tra l'altro aveva affossato tutto il listino milanese. Ieri Unicredit aveva perso il 3,6% e oggi recupera insieme a gran parte del settore bancario. Il titolo della banca è comunque sotto i riflettori anche proprio perché oggi è stato il debutto della Banca Unica, cioè della fusione in Unicredit di tutte le controllate italiane del gruppo, con la creazione di un'unica rete territoriale. Oggi è stato il primo giorno di questa riorganizzazione fortemente voluta dall'ex amministratore delegato Alessandro Profumo e confermata dall'attuale AD Federico Ghizzoni, e quindi si compie uno dei passi, insomma, della riorganizzazione del gruppo. Il titolo, come dicevamo, ha guadagnato il 2,38%, chiudendo a 1,848 euro. Ancora Telecom, dopodomani conti, più 2%, più 1,1. A 1,11 euro, scusa. Esattamente, Telecom Italia oggi sotto i riflettori proprio in vista della trimestrale. Gli analisti e le banche d'affari stanno iniziando a mettere a punto le loro previsioni in vista dei conti che saranno diffusi dopo domani. Le attese appunto sembrano positive, gli investitori stanno prendendo posizione sul titolo, vedremo poi cosa farà proprio giovedì, visto che ultimamente abbiamo visto molte volte anche a fronte di conti trimestrali positivi il titolo salire prima della pubblicazione e poi scendere proprio nel giorno della diffusione dei conti. Oggi comunque il titolo è andato bene, come dicevi tu, più 2,01%. Ancora Fondiaria Sai, vedo molti messaggi al 349-238-6666. Oggi, a differenza di ieri, in realtà Fondiaria non si è mossa esattamente come Premafin. Allora, riepilogo della vicenda. Il gruppo che fa capo alla famiglia Ligresti ha difficoltà perché ha investito su molti immobili, l'area ex Falck, Santa Giulia, ma non solo, sappiamo quello che è successo al mercato immobiliare, insomma deve trovare liquidità. La settimana scorsa notizia che sostanzialmente, anzi venerdì eravamo proprio in finale del programma, che il colosso assicurativo francese Groupama sarebbe entrato in Premafin, cioè la controllante di Fondiaria, la cassaforte finanziaria della famiglia Ligresti, con una quota che dopo l'aumento di capitale sarebbe arrivata fino al 17%, e fin qui tutto bene, il titolo guadagna. Piccolo problema, la Consob, l'autorità di vigilanza, al di là che da manchi da 4 mesi il presidente, si mette a osservare che cosa sta succedendo. Perché? Perché per la legge, se è dimostrato che ci mettiamo d'accordo tra diversi soci, e di fatto c'è il cosiddetto concerto, ripeto, quello che fu alla base delle accuse e furbetti del quartierino, e beh, il soggetto viene considerato come soggetto unico, cioè se io ho l'8% e Paronetto ha il 21% o 22%, arriviamo alla soglia del 30% dove deve scattare obbligatoriamente l'OPA su tutto il titolo, su tutto il gruppo, quindi l'offerta pubblica di acquisto, dare la possibilità di acquistare le azioni sul mercato. Ecco, se ho ben capito, gli investitori temono che qualora dove fosse mostrato un'ipotesi di concerto ci sarebbe l'obbligo di OPA, Groupama non ci starebbe e uscirebbe. Paolo, questa è la ricostruzione, oggi il ragionamento qual è? Oggi il titolo proprio sul FTSE Fondiaria Sai è stato il peggiore dell'intero listino, ha perso il 4,14%, la tua ricostruzione delle vicende è assolutamente corretta, proprio Groupama ha posto come condizione per la realizzazione dell'operazione quella di ottenere l'esenzione dall'OPA, in questo momento non è così certa. Su Fondiaria Sai ricordiamo inoltre che il mercato ormai si attende, anche se non ci sono state comunicazioni della società, un possibile aumento di capitale dopo quello che che appunto è stato annunciato proprio per Premafin. Da sottolineare che sul finale della seduta anche il titolo Premafin è andato in deciso ribasso, alla fine ha perso il 3,96%. Proprio nel pomeriggio è stato emerso dalle comunicazioni della Consob sulle partecipazioni rilevanti che è stata drasticamente ridotta la quota storica che il Crédit Agricole deteneva a titolo fiduciario proprio in Premafin, in due passaggi, uno risalente alla fine 2009 ma comunicato solo oggi e uno proprio di pochi giorni fa. Comunque il Crédit Agricole è sceso dal 9% al 2,6%, quindi ha ridotto di 3 volte la quota in Premafin, e ovviamente non si sa a chi sia stata venduta questa quota, ma le speculazioni sono ovviamente aperte. Comunque in profondo su tutta la galassia Ligresti oggi. Allora, aumenti di capitale, volete sapere al 349-238-6666, diciamo che l'aumento di capitale vuol dire aumentare il capitale, cioè chiedere soldi. Si può fare per due motivi: o perché hai un'operazione di acquisizione in vista, cioè hai bisogno di contanti per comprarti qualcuno, e lì il mercato può anche essere premiarti, perché se compri un concorrente, se c'è un'acquisizione importante, insomma, non è detto che le cose vadano male. Se invece l'aumento di capitale lo fai perché devi ripianare delle perdite, beh, quello viene solo punito dal mercato, perché in qualche modo è chiedere ai vari soci, agli azionisti, di mettere più soldi dentro il gruppo, portare un aumento di capitale, perché evidentemente ci sono perdite da ripianare. Ecco perché il titolo cala. Chiusa il commento su Premafin / Fondiera Sai Fiat. Allora, oggi il titolo sembra risentire di più dei dati sulle matricolazioni, anche se sempre a 11,85 euro è. C'è stata una strana indicazione di Goldman Sachs su Fiat, Paolo. Sì, in particolare oggi ricordiamo che il stavano diffusi proprio tra una ventina di minuti i dati sulle immatricolazioni europee e italiane, e quindi il titolo si è mosso soprattutto in attesa di questo dato, soprattutto perché ieri Federauto, cioè la Federazione Italiana dei Concessionari Auto, appunto ha annunciato, prevede un calo drastico del 39% a fronte di un meno 29% per quanto riguarda l'intero mercato. Quindi proprio sulla scia di questa, dell'attesa sul dato delle immatricolazioni, oggi il titolo Fiat è stato tra i peggiori delle blue chip, con un calo appunto dell'1,66%. Sì, però c'è Goldman Sachs che ha detto: allora, noi per linea di questo programma non diamo mai i target price, ossia gli obiettivi che le banche d'affari vedono su un titolo, perché sono troppo rischiosi, nel senso che c'è un conflitto di interessi, non sai mai se uno dia un'indicazione e poi da un lato dice di comprare e dall'altro lui vende con la mano sinistra, per cui non ci piace questo giochetto. Detto questo, in questo caso facciamo un'eccezione, perché Goldman Sachs ha detto: noi vediamo un titolo Fiat che può arrivare a 21 euro per azione. Ora sono 10 euro in più da adesso, Paolo. Certo. Non è, con un mercato in cui Fiat perde più della media, cioè perde il 40% contro un mercato che perde il 30%, non si capisce bene che film abbiano visto, a meno che non si riferiscano a una Fiat più americana che italiana. Certo, proprio il Fiat, titolo Fiat era stato sotto i riflettori anche ieri, proprio perché iniziano a circolare queste ipotesi di piani alternativi nel caso in cui fallisse la cosiddetta Fabbrica Italia, cioè il piano di Fiat per l'Italia. In quel caso proprio ormai gli investitori stanno iniziando a fare i conti che aumenterebbe decisamente il peso degli Stati Uniti all'interno del gruppo Fiat, con lo spostamento di alcune linee produttive negli stabilimenti Chrysler proprio negli Stati Uniti. Ovviamente sarebbero potenziati anche la produzione in Polonia e in Serbia, quindi una Fiat più internazionale e proprio anche più americana, e con cui gli analisti stanno iniziando a fare i conti. Ecco, la cosa conforterà gli azionisti Fiat, non conforta noi, perché insomma è chiaro che immaginare una Fiat più polacca e soprattutto più americana e meno italiana, con tutte le riflessioni che si possono fare sul tema, non è per noi bello, ma è il motivo per cui Fiat, secondo quanto leggiamo, cala così poco, perché il ragionamento non è sui dati di adesso, ma è su quello che diventerà Fiat in un tempo anche molto breve, diciamo, da qui a un anno. Il traffico e poi gli altri titoli, 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, di nuovo la borsa, vedo un messaggio, non male. Voi non lo sapete, ma la Fiat ha in cantiere un progetto per il teletrasporto. Penso che sia una battuta sul titolo e non all'ipotesi che vengano teletrasportati interi impianti produttivi. Detto questo, vedremo anche Chrysler quando uscirà il bilancio di Chrysler, ma ripeto, i ragionamenti su Fiat sono in chiave prospettica, non sul presente. Andiamo avanti con i titoli. Dicevo, negativo anche oggi il Banco Popolare -1%, Monte dei Paschi -1,25%, e Buzzi Unice -0,80%, CIR -0,60%. Tra i positivi segnaliamo invece Eni +0,70% come Enel, Snam Rete Gas, Parmalat +1% come Italcementi. Vedo alcuni messaggi che dicono, insomma, la sua definizione dell'aumento di capitale, lo so, è imprecisa, serve a spiegare a tutti, non possiamo fare un trattato di finanza su cos'è l'aumento di capitale, era per far capire perché in alcuni casi, quando si prevede che un gruppo vada a un aumento di capitale, il titolo penalizza il gruppo. Ha ragione chi dice che l'aumento di capitale può anche essere gratuito, ci mancherebbe. Migliori e peggiori, Sabaf +4,80%, risanamento com'è andata? Perché oggi la notizia, insomma, annunciata ieri in realtà, quindi oggi sui giornali, è della cessione di un immobile importante a Madison Avenue a New York. Sì, esattamente, il titolo di risanamento ne ha beneficiato, ha chiuso in rialzo dell'1,99% a 0,28 euro. Proprio ieri in serata, quindi con un riflesso oggi sui mercati, la società ha annunciato la vendita della quota di controllo nella controllata statunitense, che proprio gestisce un importante immobile di 24.000 metri quadri in Madison Avenue a New York. Quindi si tratta di un passo ulteriore nel processo di riduzione del debito della società dopo, ricordiamo, la vendita dell'area Falca a Sesto San Giovanni e la cordata guidata dall'immobiliarista Davide Bizze, quindi il mercato ha apprezzato questo ulteriore passo avanti. Allora, il risanamento è guidato da Claudio Calabi, ma è il gruppo immobiliare di Zunino. Ancora una notizia appena arrivata che riguarda Enel Green Power, che quindi interessa anche molti ascoltatori se sono riusciti a acquistare le azioni del collocamento in borsa. Allora, il 77% delle azioni sono andate al pubblico normale, il 23% agli investitori istituzionali, sia in Italia che in Spagna. 1.600.000, dunque, sono state assegnate azioni a 344.000 persone, di cui 330.000 in Italia e 12.000, scusatemi, in Spagna. E quindi 77% al pubblico e 23% agli istituzionali. Questa era l'ultima notizia di mercato in senso stretto, perché adesso invece parliamo di previsioni di mercato di investimenti da qui al medio termine. Grazie intanto a Paolo Pronetto, Radio Colle Sole 24 Ore. Grazie a voi. Eh sì, perché ce la facciamo finalmente a farvi ascoltare l'intervista del nostro Simone Spezia con Lawrence Fink, che è presidente e fondatore di BlackRock. Ad alcuni potranno dire molto, ma è la più grande società che gestisce patrimoni al mondo e fa anche private equity, quindi entra, compra pezzi di società. Pensate che gestisce 3.400 miliardi di dollari di patrimonio con 5.600 dipendenti e sedi in 20 paesi. Le opportunità, le principali opportunità di investimento a livello globale, la prima domanda che il nostro Simone Spezia ha fatto appunto al presidente e fondatore di BlackRock, Lawrence Fink. Se consideriamo uno spazio temporale di alcuni mesi, penso che continueremo a vedere il rafforzamento dei mercati emergenti, che si caratterizzano per una crescita più rapida che in Europa, America e Giappone. Nello specifico, vedo oltre alla Cina anche i paesi intorno all'area cinese. Molti si focalizzano sulla Cina, ma paesi come Vietnam e Indonesia accolgono sempre più imprese. Quindi vedo opportunità straordinarie nei paesi intorno alla Cina. In Sud America continuiamo ad apprezzare il Brasile. Ci piace molto la Colombia, che pensiamo possa avere un percorso simile a quello brasiliano, ma in anticipo rispetto a quanto fatto dal Brasile. Nel mondo sviluppato, penso che attualmente la zona più sottovalutata siano gli Stati Uniti. Se ripensiamo a maggio o giugno, l'euro e l'Europa erano in grossa crisi, e ora l'euro è intorno a 1,40-1,41 dollari. Il mercato cambia drasticamente. E credo che gli investitori debbano guardare oltre i movimenti repentini sui mercati e considerare invece un approccio sistematico agli investimenti. Direi quindi che continuo ad apprezzare i mercati emergenti, ma credo che gli Stati Uniti abbiano fatto un lavoro enorme di ristrutturazione. Il sistema imprenditoriale è ancora il maggiore al mondo. Anche se abbiamo ancora molti problemi, e non cerco certo di minimizzarli, siamo il maggiore esportatore mondiale di grano e mais, e ora vediamo prezzi agricoli alle stelle. Di conseguenza, gli agricoltori negli Stati Uniti stanno vivendo un buon momento, e credo che ne beneficeranno anche gli agricoltori italiani. Quindi, nonostante la crescita economica italiana sia praticamente piatta, il settore agricolo vivrà uno dei suoi anni migliori. Due giorni fa il capo di PIMCO, che è il maggior gestore obbligazionario del mondo, Bill Gross, ha detto che siamo in una trappola di liquidità. La frase in realtà è di Keynes. Uscire da questa trappola, ha aggiunto, è forse impossibile, proprio come una luce intrappolata in un buco nero. E aggiunge, chiedete al Giappone cosa ne pensa. Anche noi siamo preoccupati dalla liquidità. Ci sono 2.000 miliardi di dollari di liquidità nei bilanci delle società negli Stati Uniti. E la Federal Reserve, da qui a una settimana, annuncerà probabilmente un altro periodo di allentamento. Il che aumenterà ancora di più la liquidità. Non è ancora sicuro se si tratta di una trappola o no. Certo è che la Fed pensa che in questo modo si muoverà più denaro verso il settore azionario. Il presidente della Fed, Bernanke, crede che se il mercato azionario sale, la psicologia dei consumatori e di tutti quelli che vedono le azioni salire li spinge a spendere soldi. Se solo si cambiasse la mentalità dal pessimismo a un moderato ottimismo, allora tutta quella liquidità non sarebbe una trappola, ma sarebbe spesa per assumere persone, per costruire stabilimenti. I pensionati vedrebbero migliorare la propria situazione finanziaria e magari sarebbero spinti a fare più giorni di vacanza o andare più spesso al ristorante o a comprare vestiti. E ciò cambierebbe l'economia. Direi dunque che Mr. Gross non crede che le persone cambieranno atteggiamento. Io invece penso che ci sarà un cambiamento. E questa è la grande differenza tra le nostre vedute. Al di là delle mosse di cosiddetto quantitative easing, per quanto pensa che la Federal Reserve possa tenere i tassi a questo livello? Devono vedere di mese in mese, ma penso che se il mercato si riprende possano muoversi. E pensa che questo accadrà? Sì, penso che crescerà di un altro 10%. Lo stesso Bill Gross, capo di PIMCO, ha detto che siamo alla fine di un trentennio di rialzi per il mercato obbligazionario. I prossimi 30 anni potrebbero essere dell'azionario. Così puntiamo sull'azionario. Da cosa siamo spaventati? Troppi pensionati in Italia, come negli Stati Uniti, troppe compagnie assicurative, troppi fondi pensione, hanno investito, hanno messo troppi soldi nelle obbligazioni e le obbligazioni non rendono abbastanza. Crediamo che proprio per questo le opportunità che ci sono sull'azionario sono buone come non lo erano da tempo. Un'ultima domanda. Sappiamo che non si può sbilanciare per quanto riguarda i singoli titoli nei quali voi avete investito in Italia. Le chiediamo però se vede opportunità di crescita sul mercato italiano. Sicuramente. Noi siamo tra gli azionisti più grandi in diverse società italiane. A livello mondiale siamo i più grandi investitori in società. Nessuna società ha investimenti in altre compagnie equivalenti a quelli che detiene BlackRock al mondo. Noi abbiamo quote vicino al 5% in oltre 2.000 aziende in tutto il globo. Del resto abbiamo una rete globale, siamo presenti in tantissime società in giro per il mondo. In verità, però, vorremmo trovare in Italia una nuova realtà imprenditoriale, una società magari giovane da aiutare finanziariamente. Beh, più di uno spunto da questa intervista al numero 1 di BlackRock, ne riprendiamo alcuni dopo il GR. 349-238-6666 per i vostri sms. D 18:07, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Allora, alcuni aggiornamenti. Sono usciti a questo punto a livello ufficiale i dati sulle matricolazioni auto ad ottobre. Devo dire che sono assolutamente in linea con le anticipazioni che aveva fatto uscire ieri Federauto, di cui ci siamo quindi già occupati. O meglio, il mercato cala del 28,8% a ottobre, un vero e proprio tonfo per le matricolazioni auto, e va un po' peggio rispetto ai primi dati la Fiat, meno 40% a questo punto rispetto all'ottobre del 2009, chiaramente. E ancora, la quota complessiva di auto Fiat fatto 100 il numero di auto circolanti scende al 27,46%. Un anno fa era al 32%, è vero che c'erano gli incentivi. A settembre era al 28,6, un altro punto perso. È il livello peggiore quanto a quota Fiat dal 2005, dall'agosto del 2005. Quindi evidentemente, oltre che un mercato in calo, perché lo è, c'è qualche problema specifico sul gruppo Fiat. In questo caso, ieri ne parlavamo, i modelli e forse anche appunto gli incentivi che l'avevano avvantaggiata, ma qui non è più un problema di raffronto con gli incentivi. Se dall'agosto 2005 quella quota non era così bassa, c'è qualcosa di più. Questo per quello che riguarda il tema Fiat. Tra l'altro, oggi su questo, oltre al leader della CGIL uscente Epifani, che ha detto il problema della Fiat non dipende da come si lavora ma da cosa si produce, il problema è che fa delle auto che non si vendono, preoccupazione è stata espressa per i dati anticipati ieri dal segretario nazionale del responsabile auto della FIOM CGIL, Giorgio Airaudo. Sentiamolo al microfono della collega dell'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore, Teresa Trillo. Il quasi meno 39, meno 40 la porta al 28% del mercato italiano, che io credo sia il peggior dato storico della Fiat. D'altronde, non avendo nuovi modelli in programma e cessando modelli importanti come la Croma e la Multipla, per cui non si prendono più ordini, questo si traduce per i lavoratori in un aumento di cassa, in un aumento di incertezza, per cui è urgente che il ministro Romani, dopo aver incontrato Marchionne, incontri i sindacati metalmeccanici. Come è urgente che domani la Fiat all'incontro sullo stabilimento di Pomigliano ci spieghi perché ha cambiato la natura della cassa, disattendendo dopo pochi mesi già un primo punto di quell'accordo, accordo che noi non abbiamo firmato ma che al punto 9 prevedeva la cassa integrazione straordinaria per 2 anni. Oggi la Fiat chiede la cassa in deroga e noi pensiamo che la Fiat debba un po' spiegare perché chiede la cassa in deroga, perché di solito questo è uno strumento quando non si hanno altre alternative. E allora credo che andrà spiegato perché si è cambiata motivazione alla cassa, anche perché non bisogna lasciare i lavoratori di Pomigliano con pochi strumenti o scoperti di fronte a una crisi così estesa, che dura così a lungo e con dati così preoccupanti. E quanto al neo ministro Romani, ha confermato che giovedì vi sarà il tavolo per quello che riguarda il settore auto e quindi non vuole anticipare nulla. Invece noi cambiamo tema, come segnala la nostra base, ci occupiamo, seppur brevemente, dell'appuntamento a livello di politica internazionale più atteso, le elezioni americane di midterm. Il lungo election day americano, viene rinnovata praticamente tutta la Camera e un terzo del Senato. I primi seggi a chiudere saranno quelli degli stati della costa orientale, e poi alle 19 locali, e poi mezzanotte in Italia, e poi gli ultimi Alaska e Hawaii. Insomma, tutti i sondaggi sono concordi nel dire che i repubblicani dovrebbero conquistare la maggioranza della Camera e quindi uscirà la speaker Nancy Pelosi, i democratici dovrebbero mantenere il controllo del Senato. Allora, fermo restando che il partito del presidente, in questo caso i democratici, è sempre sfavorito alle elezioni di metà mandato, qui c'è un problema ulteriore e la variabile è soprattutto in questo caso non sicurezza, non politica estera, ma economia. Mario Platero, corrispondente Sole 24 Ore dagli Stati Uniti, buonasera. Buonasera Sebastiano. Ti sento pimpante. Insomma, qua sai, l'energia elettorale si trasmette, e dunque no, ti stavo dicendo sì che la parola chiave non è tanto economia quanto occupazione. perché queste elezioni si giocano su un tasso di disoccupazione che è rimasto elevatissimo. Queste elezioni diventano un referendum sull'operato di Barack Obama, sulla sua promessa di rimettere in piedi l'economia e di avere già per adesso un tasso di disoccupazione al di sotto dell'8%, comunque vicino al 9, all'8%, e questo non è successo e soprattutto non sembra che da un punto di vista strutturale le cose possano migliorare. E quindi questo ovviamente crea qualche problema di fondo a tutto il partito. Allora, occupazione, abbiamo visto che diciamo, in America un numero record di pignoramenti, solo a settembre le banche ne hanno effettuate oltre 100.000 in America, pignoramenti di case, pochi posti di lavoro, il tasso di disoccupazione è vicino al 10%, però ci sono alcune accuse che non capisco perché arrivino ad Obama, cioè il piano TARP, quello che lanciò Bush nei suoi ultimi mesi per salvare le banche, Trouble Asset e qualcos'altro, era un piano di Bush, cioè i primi 800 miliardi furono di Bush, Obama lo ha prorogato di altri 800 miliardi, ma da quello che ho capito mi sembra che l'opinione pubblica americana, non solo i Tea Party, ma grazie anche a questo movimento spontaneo di conservatori, tende a attribuire il salvataggio con i soldi del pubblico, delle banche private americane, più a Obama che a Bush, ho capito bene? Ma dunque, ci sono vari spunti della protesta, c'è naturalmente il TARP, però il TARP è più una questione filosofica, il vero punto dolente è il pacchetto di stimoli per l'economia, e cioè quei 787 miliardi di dollari diventati poi 812 miliardi di dollari a conti fatti, che avrebbero dovuto rilanciare l'economia, invece di rilanciare l'economia hanno ingigantito lo Stato. La protesta è contro lo statalismo, la vecchia anima del mercato, nonostante il mercato abbia portato una crisi gravissima, o comunque gli eccessi del mercato abbiano portato una crisi gravissima, gli americani alla fine restano ancorati saldamente ai valori essenziali del capitalismo. E dunque, uno è il pacchetto di stimoli che non ha funzionato e che ha dato l'impressione di aver ingigantito lo Stato. Due, il pacchetto di riforma sanitaria. Gli americani sono molto scontenti perché se è vero che ci sono una trentina di milioni che forse potranno avere, e sottolineo forse, una nuova assicurazione, ce ne sono altri 200 di milioni che pensano che loro si troveranno in una situazione peggiore. Ecco, allora, su questo io ho una domanda, la cui risposta però vorrei dopo il traffico. A noi da qua, quindi con un osservatorio parziale, è sembrato che Obama sia stato, mentre sulla riforma sanitaria si è scontrato col Senato, col Congresso, comunque ce l'ha fatta, sulla riforma di Wall Street, cioè di chi ha generato questa crisi, praticando mutui assolutamente strampalati, per non usare altre parole, andando a utilizzare la leva, impacchettando il rischio e spargendolo come un virus dappertutto. Insomma, il piano di riforma su regole più strette, separare la banca che fa affari dalla banca che gestisce i risparmi degli americani, lì sia stato molto timido, molto bloccato. Allora ti chiedo, e vorrei la risposta, perché non ha osato un po' di più, perché non ha attaccato frontalmente la lobby di Wall Street, forse perché ha un segretario del tesoro che appartiene a quella lobby stessa, mi riferisco a Timothy Geithner. La risposta fra un minuto, 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, di nuovo in diretta, Mario Platero, perché Barack Obama non ha affrontato a muso duro Wall Street, non tanto e non solo per riformare la finanza derivata e deviata, ma anche per ottenere maggiore consenso nella base, nel Midwest, insomma in questi possibili elettori o partecipanti dei Tea Party che vedono Wall Street come insomma tra Sodoma e Gomorra, eccoci. Allora Sebastiano, se ci fossero i banchieri ad ascoltarti ti direbbero ma da che parte stai, perché loro in realtà da quelle di chi mi ascolta, oltre che i banchieri, da quelle di chi ascolta, ma lo stesso i banchieri pensano di fare l'interesse del grande pubblico. Allora, dal punto di vista dei banchieri, visto che mi chiedevi di chiarire una dialettica politica e non populista, i banchieri sono furibondi dal fatto che Barack Obama ha fatto un pacchetto di riforme che su alcuni punti, perché più o meno sugli altri si erano trovati d'accordo, su alcuni punti crea dei problemi che potrebbero avere un risvolto economico. Per esempio, il pacchetto che è stato approvato faticosamente per la creazione di un'agenzia per la protezione dei consumatori è considerato pericoloso, perché dipenderà tutto da chi lo guida questa, da chi la guiderà questa agenzia, perché è vero che ci sono stati degli eccessi nell'erogazione di carte di credito, che ci sono stati degli eccessi nell'erogazione dei mutui e così via, così via. Però il rischio in questo pacchetto, che è piuttosto complesso, è quello di gettare via il bambino con l'acqua sporca. Perché? Perché se alla fine ci sarà qualcuno di molto rigoroso alla guida di questa agenzia, si andrà a mettere un cappio sul credito al consumo. E questo è pericolosissimo nel momento in cui l'economia americana ristagna e ha bisogno, come sai, del traino dei consumatori per poter avanzare. I 2/3 dell'economia americana dipendono dai consumatori. Quindi i banchieri dicono questa agenzia bisognerà vedere come funzionerà, e quindi non sono contenti di questo. Per ora Elizabeth Warren, che è stata nominata, non promette bene. Quindi diciamo che il pacchetto di Obama si è fermato non necessariamente dalla parte dei banchieri, ma ha dato un po' un colpo al cerchio, un colpo alla botte. Ci sono stati poi gli inevitabili compromessi, per esempio il senatore Scott Brown del Massachusetts, votato dai Tea Parties, che è riuscito a strappare il seggio di Ted Kennedy grazie ai Tea Parties, alla fine si è messo d'accordo con i democratici. Perché? Perché hanno tolto proprio da questo pacchetto della protezione dei consumatori una regola che avrebbe penalizzato la State Street Bank, che come sapete è la più importante banca americana per le transazioni di clearing, che guarda caso ha sede a Boston in Massachusetts. Resta il fatto, d'accordo con te su molte delle tue analisi, che viene percepito come insomma non aver anche attaccato Wall Street. Tu poi dici, guarda che lui in realtà subisce addirittura le critiche dei manager di Wall Street per leggi che in qualche modo ritengono penalizzanti. Staremo a vedere, domani riavremo in collegamento te ed altri commentatori, perché a quel punto dovremmo avere i dati complessivi. Restiamo però in tema nel ringraziare Mario Pratero in collegamento con noi da Washington, di chi attacca il mondo della finanza e che lo fa per motivi alcune volte valutati come populistici. Riguardo i promotori non è che c'è da aggiungere altro, ormai il business che sta dietro le reti di promozione finanziarie sono state smascherate in questi ultimi anni e hanno dato adito a quelle che sono le interpretazioni poi dei piccoli risparmiatori, i quali proprio a fronte degli episodi di polverizzazione finanziaria che ci sono stati in questi ultimi 10 anni possono essere chiamati in causa come principali artefici. Sui promotori io non ho altro da aggiungere, anche perché poi nello specifico è una figura che esiste solo in Italia. Nelle altre, quindi un professionista che viene remunerato in base a quello che vende, non per la descrizione di analisi di scenari finanziari oppure per la cosiddetta consulenza, che oltretutto non può fare. È una peculiarità tipica del nostro paese il fatto di avere figure professionali che al di fuori dei nostri confini hanno dubbia valenza e soprattutto prestigio. Così Eugenio Benettazzo sui promotori finanziari. Apriti cielo, mail infuriate di promotori finanziari. Allora, per concludere con il presidente dell'ANAS, che è l'Associazione Nazionale dei Promotori Finanziari, Elio Continibili, buonasera. Buonasera. Ci dica nei prossimi 4 minuti che cosa era una castroneria, che cosa dal vostro punto di vista era populismo puro. Prego. No, guardi, dichiarazioni assolutamente gratuite che probabilmente non sono neanche degne di essere commentate, non so neanche chi è questo personaggio che le ha fatte, e tra l'altro fa riferimento a delle cose non sapendo neanche di cosa parla. Se c'è una cosa che è venuta fuori come un valore per l'industria finanziaria italiana, che è diventata parte integrante della direttiva MIFID e quindi a livello europeo con una dignità importantissima, è proprio la figura del promotore finanziario. Il tied agent previsto proprio dalla MIFID è il promotore finanziario italiano, nient'altro. Quindi già questo la dovrebbe dire lunga sul valore che ha la nostra attività e sul riconoscimento che è riuscito a ottenere. Poi ho sentito dire anche che il promotore finanziario non potrebbe fare consulenza, nulla di più sbagliato, proprio la normativa i regolamenti di conseguenza, il recepimento, i regolamenti dicono tutt'altro, quindi non stiamo parlando di questo, però probabilmente il valore proprio della nostra professione, i risultati conseguiti per i risparmiatori, anche e soprattutto all'indomani della crisi attestati da tutte le ricerche di mercato che continuamente vengono sfornate, la dicono lunga invece sul valore che la nostra attività riesce a dare al risparmiatore. E a generale. Allora, Presidente Contenibili, per concludere, lasciando stare Eugenio Benettazzo, che è un po' il Beppe Grillo della finanza, vabbè, si sarà autopromosso, però mi dice in conclusione se la critica che viene fatta molte volte anche dai gestori, non tanto, che da noi costa molto il risparmio gestito perché costa molto la rete, cioè tutti i promotori che devono piazzarlo e venderlo. Lei che risponde, è vera? Costate molto come rete? Guardi, io credo che tutte le attività debbano essere remunerate per quello che valgono. E allora, se la distribuzione, in questo caso attraverso le reti di promotori finanziari, ha un valore, questo valore deve essere riconosciuto. E allora ritorno a quello che ho detto prima, e su questo però potremmo fare un bellissimo dibattito, anzi potremmo anche organizzare un convegno, la inviterei dottor Barrisone ad essere presente magari per moderarlo, perché proprio il riconoscimento del valore della nostra attività giustifica anche il costo. Ci sono sicuramente altri canali cui probabilmente il costo non è giustificato. Io credo che nessuno può pensare che dare un servizio di qualità può essere dato gratuitamente. Tutto sta a vedere effettivamente se c'è qualità. Noi riteniamo, lo ritengono probabilmente anche i nostri clienti, i risparmiatori che si affidano alle reti di promotori finanziari, che sono aumentati. Io soltanto un dato vorrei sottolineare. Uno solo. Negli ultimi 3 anni noi abbiamo aumentato di quasi 7 punti la quota di mercato di risparmio gestito. Quindi significa sicuramente qualcosa. Vabbè, allora Presidente, io le dovevo, giusto come facciamo sempre con tutte le categorie che tocchiamo, una risposta. Grazie per l'invito, ma se vengo io portiamo anche Benettazzo? Guardi, può venire chiunque, perché l'importante è confrontarsi su dati seri e nell'interesse del pubblico, che deve essere informato correttamente. Il nostro obiettivo è questo, e credo che anche attraverso voi questo si può fare. Allora, facciamo una cosa in cui c'è anche Benettazzo, così io mi diverto, ci scanniamo. Ma figuriamo, voi vi scannate. Grazie, non grazie. Ci scanniamo, dibattiamo. No, dibattiamo, ci scanniamo verbalmente, ma ci mancherebbe. Questo è un programma cortese ed educato. Grazie. Assolutamente sì, grazie a lei. Grazie al Presidente dell'Associazione Nazionale dei Promotori Finanziari, Elio Conti Nibali. Senza nessun riferimento a altri programmi che potrebbero non essere cortesi, fammi finire, potrebbero non essere cortesi e così educati. Giuseppe Cruciani, di cosa ti stai, di cosa ti occuperai? Il nostro programma, che è per definizione scortese e ineducato, si occuperà della frase del giorno, che vabbè, è inutile dirlo, è quella pronunciata da Berlusconi oggi alla Fiera di Milano sui gay, sugli omosessuali. Meglio guardare belle ragazze che essere gay. E vabbè, sei d'accordo? Assolutamente no, nel senso che ognuno fa quello che vuole della sua vita privata, e soprattutto uno parla in quanto Presidente del Consiglio. Grazie Giuseppe Cruciani, e non in quanto siamo a Villi Pasini. Grazie Giuseppe Cruciani, da Sebastiano Barisoni veramente tutto, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.